Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. E sabato, ecco qua, Mebius. Ciao Simone. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora, ieri c'è stata una conferenza stampa al CNR a Roma sul caso Xylella con delle novità importanti e quindi vi racconteremo com'è andata, cosa è uscito. Anche noi infatti faremo il punto della ricerca sulla questione e poi parleremo di nodi che si sciolgono e di nodi che invece vorremmo formare, quindi dai lacci delle scarpe ai nodi molecolari. Lacci delle scarpe che ne hanno parlato tutti, sembrava una roba solo divertente, invece è vero che è divertente, ma dietro c'è un potenziale anche in altre direzioni. Resteremo in qualche modo dentro strumenti matematici, facendovi capire che se un ragazzino fa il quadrato e magari una ragazzina fa il triangolo, loro capiscono meglio la matematica. Facendo alcune cose in particolare, rimanete con noi così scoprirete quali. Via allora! La xylella fastidiosa sta effettivamente mettendo a dura prova la Puglia, l'ovicoltura pugliese. Proprio ieri mattina, nella sede romana del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è cercato di fare il punto su come contrastare efficacemente questo batterio. Ha partecipato Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari del CNR, che è con noi questa sera. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Senta Francesco Loreto, negli ultime settimane è girata una roba che oggettivamente era un po' strana, so che una parte della conferenza l'avete dedicata anche a questo, e cioè il CNR ha messo a punto nei suoi laboratori una varietà d'ulivo che è in grado di resistere e abbastanza bene alla xylella, però si dice non volete che renderla disponibile. Proviamo a chiarire subito questa cosa. Questa è un po' una favoletta. Però è girata, è meglio chiarirla. Sì, certamente. Allora, una delle varietà resistenti che abbiamo, che stiamo cominciando a selezionare, ne abbiamo circa 300 in prova, è appunto questa FS17, che è una selezione di frantoio, una varietà piuttosto antica, che era stata brevettata come varietà altamente produttiva e poco alternante, quindi per altri motivi, dal CNR circa 30 anni fa, nel 1993. Quindi questa varietà l'abbiamo noi nel tempo licenziata a tre vivai che hanno l'esclusiva per la propagazione della pianta nelle varie zone d'Italia. Uno per il nord, uno per la Puglia e uno per il sud, e questi tre vivai, come dicevo prima, la possono propagare e rivendere, ma poi chiunque, dico chiunque, dal singolo orticoltore o olivicoltore al vivaio che compra dall'altro vivaio, possono comprare e rivendere, quindi la varietà è totalmente libera sul mercato. L'unica cosa che fa il CNR e stabilire attraverso questo sistema che soltanto tre licenziatari possono riprodurre la varietà sotto il nostro controllo, tale che così la varietà è stabile e sappiamo che certo. Si tratta sempre della stessa pianta. Senta, però rispetto alla situazione in Puglia, al momento, se non sbaglio, abbiamo a disposizione l'intero sequenziamento del genoma dell'olivo. Sappiamo appunto che alcune varietà sono tolleranti, riescono a tollerare la presenza del batterio, e conosciamo meglio anche la biologia dell'insetto che veicola questa xylella da un albero all'altro. A questo punto abbiamo diverse carte da giocare per poter in qualche modo contenere questa epidemia. Sì, questo non c'è dubbio. Infatti la soluzione della varietà resistente, non direi tollerante, perché questa varietà, così come tutte le altre varietà, viene infettata da xylella, però l'inoculo all'interno della pianta è 100 volte di meno rispetto a quello che è nelle piante, l'inoculo nelle piante più suscettibili. Quindi insomma questa è una delle soluzioni, ma noi ne stiamo testando tante altre. Per esempio stiamo lavorando con delle molecole che possono essere battericide o batteriostatiche, oppure stiamo guardando se ci sono dei metaboliti coinvolti nella diffusione della xylella. Stiamo lavorando sui batteri endofiti antagonisti o su altre, su semenzali, per vedere se riusciamo ad avere invece da semenzali che sono cresciuti lì delle piante addirittura immuni. Ma siccome sappiamo tutti che tipo di clima si è venuto a creare, con certo grossi problemi dal punto di vista collaborativo, lì adesso che cosa si può fare, che cosa sta facendo? Ci sono problemi nel mettere in moto questi interventi? L'unico problema, in realtà, noi per esempio abbiamo due progetti europei, un progetto che è finanziato da EFSA, anzi un procurement di EFSA, altri progetti regionali, e molti di questi progetti noi li tiriamo avanti insieme a olivicoltori locali, a organizzazioni professionali, molti per esempio lavoriamo assieme a Coldiretti. Quindi da quel punto di vista io non credo che ci sia così una contrapposizione all'interno di chi lavora sull'olivicoltura. Cioè sul campo le cose funzionano, c'è un po' di rumore intorno. No, aspetti, la cosa fondamentale è che la legge in questo momento non consente di reimpiantare nella zona infetta. Tutto quello di cui stiamo parlando lascia un po' il tempo che trova, perché fino a quando ci sarà questa legge europea che dice va bene, ormai è inutile eradicare, che tanto la zona si è infettata e basta, però cerchiamo almeno di non reimpiantare e quindi di evitare di moltiplicare l'inoculo, finché c'è questa legge, insomma, noi lavoriamo ovviamente per il futuro. Ma quindi non è possibile favorire la diffusione di queste varietà di ulivo che diceva sono resistenti? Non nella zona infetta, cioè noi possiamo tranquillamente impiantare queste varietà per esempio nelle zone tampone, nelle zone a margine, quelle immediatamente a nord della zona infetta, ma la zona infetta è off limit in questo momento. Quindi quali sono i prossimi passi da fare per cercare di sanare questa situazione? Sono legislativi, esatto, quindi il CNR purtroppo c'entra poco in queste cose. Quello che è possibile, quello che si può fare è cercare di convincere appunto i legislatori che ci sono ormai delle strategie e delle piante, delle cultivar che consentono di far riprendere, di essere resilienti, come diciamo. Vabbè, cioè, non so se lo vuole dire lei, ma insomma è un paradosso questo, perché non si capisce, sappiamo cosa fare, ma c'è una legge che dice che non va fatto. Insomma, le leggi seguono sempre con un certo ritardo quello che si mette appunto dal punto di vista scientifico, non è il primo caso. Anche noi siamo abbastanza, comunque ancora abbastanza prudenti, perché è vero che questa varietà e altre varietà le abbiamo testate, abbiamo visto che effettivamente l'inoculo è molto basso e così via, però poi ci sono tutta una serie di altri fattori che ancora devono essere studiati. Per esempio, questa varietà produce un olio di buona qualità, è un'alternativa valida per un'olivicoltura che è fondamentalmente basata su aspetti paesaggistici più che produttivi, come sappiamo insomma da vari aspetti. Quindi insomma tutta una serie di cose che fanno ancora a maggior ragione bisognerebbe incominciare a lavorare. A maggior ragione, sì. Grazie, buon Francesco lavoro. Francesco Loreto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Le strade, il traffico è ovunque e adesso ci raccontano come va. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Buonasera Monica Gori, benvenuta su Mebius. Buonasera. Monica Gore è una psicologa con dottorato in robotica, lavora all'IIT, all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, dove coordina un gruppo di ricerca che si occupa, tra le altre cose, anche di come avvicinare alla matematica i più piccoli. E la prima curiosità che abbiamo è questa: in pratica riesce meglio l'apprendimento della matematica se vengono coinvolti i cinque sensi? È proprio quello che vogliamo capire nel progetto WeDraw. WeDraw è un progetto finanziato dall'Unione Europea che è partito a gennaio. L'idea del progetto è quella di riuscire a capire come il bambino più piccolo possa usare modalità sensoriali alternative alla visione, che è la modalità sensoriale preferenzialmente usata, diciamo, nell'insegnamento, nelle classi, per apprendere attraverso udito, tatto o l'unione di udito, tatto e visione alcuni concetti matematici e geometrici. Tra l'altro sta lavorando in questi incontri organizzati dalla casa editrice De Agostini con gli insegnanti per spiegare questa cosa. Ecco, ma mettiamo i piedi nel piatto. Che cosa sono le cose che, se le scriviamo sulla lavagna, i piccoli, quando noi siamo piccoli, capiamo meno, con più difficoltà? Diciamo, in generale, attraverso questi incontri che abbiamo fatto con De Agostini e che in parallelo sta facendo l'università di University College di Londra, stiamo proprio chiedendo agli insegnanti di dirci quali sono i concetti matematici e geometrici tra una serie che noi presentiamo più difficili da insegnare attraverso la visione. Per esempio? Ecco, per esempio le trasformazioni isometriche nel piano cartesiano, il movimento in generale, la comprensione del movimento nel piano cartesiano per quanto riguarda la geometria, ma anche il concetto di simmetria, mentre invece per quanto riguarda, diciamo, la matematica, alcune difficoltà sono legate al concetto di frazione e ingrandire o diminuire le dimensioni e capirne le relazioni. Monica Gori, visto che parliamo di bambini, di bambine, ecco, questi concetti come si presentano? Quello che noi cerchiamo di fare, appunto, è di aggiungere ulteriori modalità sensoriali, per esempio per spiegare il concetto di simmetria con alcune informazioni sonore piuttosto che di movimento del corpo, oppure alcuni concetti come per esempio le trasformazioni sul piano cartesiano, di nuovo camminando nello spazio o dando alcune informazioni non solo visive ma anche uditive e tattili. Ecco, vediamo per esempio questa cosa delle trasformazioni nel piano cartesiano. Lei intende dirci che capiscono male esattamente che cosa, cioè una figura, un quadrato che abbiamo sul piano cartesiano e che si sposta, che muoviamo? Quello che viene fuori dagli insegnanti proprio che e dai pedagogisti, che la complessità sta nel ruotare queste figure, nel capire che le figure sono sempre le stesse, nonostante le loro traslazioni, rotazioni, ribaltamenti, e quindi il comprendere che questo spostamento nel piano appartiene allo stesso. E allora che cosa fate? Allora, per esempio, per quanto riguarda il piano cartesiano, stiamo lavorando adesso con il gruppo dell'Università di Genova, in collaborazione con Gualtiero con Gualtiero Volpe, che è l'altra persona con me che coordina il progetto, e con di nuovo altri esperti a Londra, e stiamo un'idea che abbiamo avuto, adesso la approfondiamo con gli insegnanti nei prossimi mesi, è quella di creare un piano per terra, praticamente, dove il bambino diventa la figura sul pavimento. Lui diventa la figura e, spostandosi nel pavimento, ribalta questa figura. In questo modo lui rappresenta la figura con il suo stesso corpo e può, attraverso il movimento della stessa, diciamo, del suo corpo nel piano, comprendere come ruota, trasla o si sposta in avanti, indietro, destra e sinistra, un punto nel piano cartesiano. Gli fate fare il quadrato. Bravissimo, sì, il quadrato, il triangolo, facciamo essere il suo corpo la figura. Una situazione immersiva, quindi? Assolutamente immersiva, che sfrutta diverse modalità, appunto, come ritorno, e quindi per insegnare al bambino cosa è giusto, cosa è sbagliato, per poter poi in futuro poter abbattere le barriere pensando anche a bambini con disabilità. Questo perché se noi diamo al bambino delle informazioni che non sono puramente visive ma anche uditive, o in qualche modo un ritorno tattile sulla pelle, può essere un sistema che può essere usato liberamente dal bambino tipico, quindi senza disabilità, che però preferisce un'altra modalità sensoriale a quella visiva, ma anche dal bambino disabile con la disabilità visiva o altri tipi di problematiche. Senta Monica Gori, però anche un mezzo, tre quarti, non è chiaro se viene scritto sulla lavagna o se lo leggono anche sui libri, perché la modalità visiva non è solo quella della lavagna ma anche quella dei libri. E lì che cosa fate per le frazioni? Per le frazioni noi ci siamo rifatti, diciamo, a un sistema che è stato, diciamo, proposto per quanto riguarda anche la percussione nel corpo, e quindi ci sono degli studi che fanno vedere che se uno mantiene un ritmo nel corpo e un'altra persona, diciamo, un altro ritmo o anche due ritmi diversi, in qualche modo attraverso il ritmo può essere possibile capire le divisioni del tempo nello spazio, in un certo senso provare a sfruttare la musica per insegnare le frazioni. Perché la musica ha una sua ritmica, poi i musicisti parlano di tre quarti, cinque quarti. Okay. Invece ci faccia un esempio di come viene coinvolto il senso del tatto. Ecco, il senso del tatto può essere coinvolto, diciamo, attivamente, quindi il bambino fa dei movimenti che vengono per esempio catturati con una Kinect e vengono, diciamo, in qualche modo prodotti dei feedback, quindi vengono dati delle istruzioni su come si è mosso, ma anche da delle stimolazioni tattili che il bambino riceve. Mm. E quindi per esempio tra le varie strumentazioni, una strumentazione che pensavamo di usare è quella che produce delle piccole vibrazioni, tipo quelle che fa il cellulare, però molto più piccole, localizzate nella pelle, in modo che nel braccio, per esempio, in modo che il bambino possa sapere, possa avere delle informazioni di vario tipo, per esempio per capire le frazioni o lo spostamento nel piano. Lei citava la Kinect, che è quel sistema oggi diffuso anche per videogames, no? Ci si muove in uno spazio che è quello della propria stanza, e però sullo schermo si vedono i risultati di questa movimentazione, per esempio giocando a tennis, no? Si può giocare a tennis fingendo veramente di avere in mano una racchetta, e questo, lei dice, funziona di più. Sì, noi, la nostra idea è sfruttare comunque una tecnologia molto semplice che possa essere distribuita a basso costo, perché vogliamo che, diciamo, tutti questi strumenti poi arrivino al bambino. E il tablet non farà solo una visualizzazione, ma, visto che è in grado di fare anche dei suoni e delle vibrazioni, fornirà informazioni multisensoriali. Quindi è una piattaforma multisensoriale per l'insegnamento. Bene, Monica Gori, aspetteremo quindi queste app. Buon lavoro. Grazie mille. Buona ricerca. Che si slacciano così facilmente. Federico, mi riferisco alle stringhe, ai lacci delle scarpe. Sì. Pensa che un gruppo di ingegneri meccanici dell'Università della California si è preso la briga appunto di capire perché, e ha sottolineato però che capire la dinamica dei nodi, dei lacci delle scarpe è affascinante, anche perché ci consente di capire un po' meglio le strutture microscopiche o addirittura molecolari, come il DNA. Esatto, se ne è parlato moltissimo in questi ultimi giorni, ridendo, perché in effetti sembra una roba buffa, ma noi qui a Möbius ci siamo detti: andiamo a vedere invece che tipo di riflessi in altri campi potrebbe avere. E tu hai intervistato Cristian Micheletti della SIS di Trieste, la Scuola Superiore di Studi Avanzati, che lavora là sui nodi in biologia. Cristian Micheletti, dallo studio dell'Università della California emerge che una combinazione di forze entra in gioco e indebolisce il nodo fino a farlo sciogliere. Sì, è così, hanno messo in luce dei fenomeni che già si conoscevano, però la particolarità di questo studio è che li hanno colti nell'atto in cui avvengono tramite camere ad elevata risoluzione, quindi hanno mostrato che le due parti componenti di un nodo, cioè il fiocco e i terminali, i capi che sono liberi, durante questo movimento, il piede che batte sulla strada, il movimento oscillatorio della gamba, danno dei colpi di frusta che allentano progressivamente il nodo, e dopo, in un modo subitaneo, il nodo si scioglie. Quindi non ci sono dei segnali di preavviso, si scioglie piano piano, ma diventa praticamente un effetto catastrofico, come lo chiamano loro. Sì, come se ci fosse una mano invisibile. Sì. Comunque, Micheletti, passi per le scarpe, ma ci sono alcuni ambiti in cui la tenuta del nodo è veramente fondamentale. Sì, infatti, lo studio, se vogliamo, può essere una curiosità, lo dicono gli stessi colleghi della California, però metà delle citazioni che loro fanno sono a studi che riguardano i nodi usati nei punti di sutura e punti chirurgici, dove lì è molto importante la tenuta del nodo, anche in seguito a sollecitazioni meccaniche su scala di tempo di vari giorni, se non settimane. E dopo ci sono degli altri ambiti dove i nodi, che di solito sono una scocciatura quando ci capitano, perché ci costringono a perdere tempo per sciogliere corde, i fili delle cuffiette, ci sono altri ambiti in cui i nodi sono invece essenziali, indispensabili e funzionali. E questi ambiti, oltre alla chirurgia, sono quelli dei nodi marinari, dove dobbiamo fissare diverse corde, oggetti alle corde, o anche le arrampicate, dove lo stesso essere umano che si affida e si fida di un nodo per la sua tenuta. In questi ambiti, quindi, dicevamo, i nodi sono necessari, in altri invece i nodi non piacciono. Per esempio, i nodi non piacciono alle molecole della vita. Di proteine con nodi ce ne sono pochissime, l'RNA, se non sbaglio, non presenta nodi, il DNA invece, proprio come i capelli o i gomitoli di lana o il filo degli auricolari, delle cuffiette, ha la tendenza a formare nodi. Chi ci pensa a sbrogliarli e perché è importante sbrogliare questi nodi? I nodi sono, come avete appena ricordato, sono una inevitabilità fisica e la natura ci deve fare i conti e ha anche sviluppato delle contromisure per queste. E giusto per porre in modo più quantitativo il problema, noi tutti siamo familiari col fatto che quando mettiamo via il filo delle lucette natalizie un anno e lo recuperiamo l'anno dopo, lo troviamo pieno di nodi, difficilissimo da districare. Ci sono due meccanismi in atto che producono i nodi in quel caso, che sono gli stessi che sono in atto nel produrre i nodi inevitabili nei biopolimeri, nelle molecole della vita, come il DNA. E questi due meccanismi sono la lunghezza della molecola, cioè più lungo il filo, più facile che spontaneamente si formino nodi, e dopo più il filo è impacchettato, condensato, più facile che ci siano i nodi. Ecco, nel caso del DNA, la situazione è ancora più estrema di quello del nostro filo natalizio, no, di cui abbiamo parlato, perché pensiamo per esempio che ciascuno dei cromosomi di DNA umano ha tipicamente una lunghezza di qualche centimetro, è un filo sottilissimo, di pochi miliardesimi di metro di spessore, però la lunghezza di ciascun cromosoma è di qualche centimetro e una decina, qualche decina di cromosomi vengono tutti impacchettati nel nucleo che ha una dimensione di 10 milionesimi di metro. Quindi il livello di impaccamento è estremo e non c'è solo il problema di dover impaccare il DNA in quello spazio, ma proprio come noi con il filo delle lucine natalizie poi dobbiamo andarlo a recuperare, anche la biologia ha bisogno di districare il DNA, andarlo a leggere, andarlo a duplicare, andarlo a copiare, e quindi tutti i fenomeni di nodi e intricatezza che si possono formare sono esiziali. E la natura ha essenzialmente adottato due contromisure. E c'è un tipo di contromisura, possiamo chiamarlo attivo, è operato da dei macchinari cellulari, sono degli enzimi, consumano energia, per questo vengono chiamati un meccanismo attivo, si chiamano topoisomerasi, e queste piccole macchinette cellulari vanno a sedersi e si spostano lungo il DNA e dove trovano degli incroci che sono segnalatori di nodi, loro fanno il passaggio del filamento, cioè dove trovano gli incroci loro rompono un filamento e lo fanno passare sopra l'altro e dopo lo sigillano nuovamente. Quindi tagliuzzano e riattaccano, e in questo modo questi enzimi sono molto importanti per il metabolismo della cellula. Estremamente importanti, tant'è vero che sono anche bersagli per farmaci. E di solito si vuole che questi enzimi funzionino al meglio, proprio perché il corretto funzionamento della cellula non potrebbe permettersi di avere aggrovigliamenti che gli impediscono di compattificare, sbrogliare, processare il DNA. Però c'è un caso in cui invece tutto questo processamento di DNA vuole essere bloccato, ed è il caso delle cellule cancerose, che come sappiamo si proliferano purtroppo a dismisura, e quindi parte alcune terapie, le terapie per esempio associate anche alla chemioterapia, utilizzano degli inibitori delle topoisomerasi, quindi sono delle piccole molecole che vanno a bloccare l'azione di queste forbici molecolari, e in questa maniera si fa sì che il DNA che prolifera, che è soprattutto quello delle cellule cancerose, venga tagliuzzato e non venga più incollato assieme, e questo porta alla morte delle cellule cancerose. A proposito di nodi, poi c'è la questione dei virus, perché avete visto che in qualche modo più la molecola di DNA del virus è priva di nodi, più velocemente riesce ad essere aggressiva. Cristian Micheletti, dai lacci delle scarpe ai nodi molecolari, insomma, io vorrei farle ancora alcune domande, però continuiamo sul blog di Mebius su radio24.ilsole24ore.com. Buona serata e l'aspetto di là. Grazie a voi, arrivederci a tutti, buona serata. Noi arriviamo sempre alla fine, che abbiamo 3 secondi. Sfruttiamolo per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo. Buona settimana a tutti e a tutte.